Sezione 12 di Nove Udi Barbare di Giuseppe Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni e per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Monica M.C. La madre. Gruppo di Adriano Ceccioni. Leggerto l'alba che affretta rosea al campo ancora grigioli agricoli. Mirava scalza col pie ratto passar fra i rori di odore del fieno. Curva sui biondi solchi larghi omeri udivan gli olmi bianchi di polvere le stornellante sul meriggio. Sfila le rauche cicale ai poggi, e quando alzava dall'opra il turchito petto e la bruna faccia e di riccioli volvi, i tuoi vespri, o Toscana, coloraro indie le balde forme. O forte madre paleccia il parvolo forte, dai nudi seni già sanziato aleccia lo alto. E ciancia dolce con lui che lo giri occhi materni. Intende gli occhi fissi e del piccolo corpo tremante di inquietudine. E le cercanti dita, ride la madre e slanciasi tutta amore. A lei intorno ride il domestico lavor. Le biade tremule accennano dal colle verde. Il bue mucca e canta il florido gallo solaia. Natura i forti che per lei spregiano le care ai vulghi lavi di gloria. Così di sante visioni conforta l'anime, o Adriano. Onde, tu al marmo severo artefice, consegni un'alta speme dei secoli, quando il lavoro sarà lieto, quando sicuro sarà l'amore? Quando una forte plebe di liberi dirà, guardano nel sole, illumina non lo seguire, ai tiranni ma la giustizia piade lavoro? Fine della sezione 12.